Le canzoni che conosco quasi sempre lasciano capire che l'amore fa soffrire. Io non so che sono innamorato, ogni giorno vorrei poter cambiare una bocca da baciare. Sono 12, sono 12 le ragazze che fan battere, che fan premere questo cuore. Sono 12, tutte 12 un po' pazze, ma dall'animo molto semplice sognatore. Però la tredicesima, voi non sapete com'è, potrei anche mostrarvela e non lo faccio perché. Sono 12 le ragazze, ma l'amabile tredicesima è per me. Sono 12 le ragazze, ma l'amabile tredicesima è per me, è per me, la tredicesima è per me.